GR Sport. Buongiorno a tutti da Carlo Genta. In Spagna è stata la notte della grande festa per i campioni d'Europa, mentre ieri la commissione tecnica dell'UEFA ha incoronato Xabi Hernández miglior giocatore di Euro 2008. È Gigi Buffon l'unico rappresentante dell'Italia nella lista dei 23 migliori calciatori degli europei. A farla da padrone è stata ovviamente la Spagna, con ben 9 giocatori presenti. Dalle nostre parti invece è il giorno di Marcello Lippi, che torna a guidare la nazionale italiana. La presentazione ufficiale è in programma oggi pomeriggio alle 15 a Roma. Qualche tempo fa, a Pavia, Lippi ha tenuto l'ultima di una serie di lezioni che lo hanno portato, negli ultimi 2 anni, a incontrare studenti di molte università italiane. Davvero interessante sentire questi concetti. Ho cercato subito, fin dall'inizio, di far capire ai giocatori che noi dovevamo diventare una squadra. Non deve essere le convocazioni Coverciano, sì, si va, ma c'ho male, non vengo, vengo la prossima volta perché mi fa male la gamba, no, si va. Deve essere una squadra nella quale io sogno di far parte da una vita, finalmente ne faccio parte e voglio dare tutto me stesso a questa squadra per diventare forte, competitiva, per ottenere le più grandi vittorie possibili, visto che ne abbiamo la possibilità. E così ho cominciato. Ad andare a trovare i giocatori nelle loro sedi, nei loro ritiri, a parlare con tutti dai 18 fino ai 40 anni. Mi ricordo che andai a trovare il Milan e c'era Costa Curta che mi venne a salutare, mi disse: io mister Boccalupo, io la saluto, vado via. Gli faccio: dove vai? Cioè, mister, io ho 40 anni, dove tanto non mi chiamano. No, ho detto: no, stai qua anche te. Il sogno deve appartenere a tutti, dai 18 ai 40 anni. Sarà certamente uno degli azzurri del nuovo corso Daniele De Rossi, che resterà alla Roma per almeno altri 4 anni. Il centrocampista giallorosso ha infatti firmato il prolungamento del contratto che lo legherà al club fino al giugno del 2012. Con De Rossi la Roma sforerà il tetto degli ingaggi fissato a 2,5 milioni netti. Infatti complessivamente per 4 anni De Rossi percepirà 31 milioni di euro lordi. Sempre sul fronte di contratti e di mercato, ufficiale il ritorno di Christian Vieri all'Atalanta. Vieri ha firmato con il club bergamasco un contratto annuale. Sempre a proposito di attaccanti, il Napoli ha ufficializzato l'acquisto dell'argentino Germano Denis. Il giocatore proviene dall'Independiente, ha firmato un contratto di 5 anni. Denis ha già giocato in Italia dal gennaio 2002 alla fine del 2003. 29 presenze, 3 gol nel Cesena in C1. C'è anche un caso di mercato. Dario Knežević, difensore croato, corteggiato anche dal Torino, è della Juventus. Il club granata però aveva già stipulato un accordo con la società toscana di Knežević, cioè il Livorno. Una situazione complicata che, se confermata, potrebbe creare non pochi problemi al club di Spinelli. Lasciamo il calcio, cambiamo argomento. Come sempre, i trials americani, le selezioni che qualificano alle Olimpiadi, sono una miniera di record. In quelli di nuoto a Omaha, nel Nebraska, Michael Phelps ha migliorato il suo record del mondo sui 400 misti, nuotando in 4:05:25. Il 7 volte campione olimpico ad Atene 2004 ha battuto così il suo precedente primato, che stabilì ai mondiali di Melbourne nell'aprile 2007. Katie Hoff ha stabilito il nuovo record del mondo sui 400 misti, nuotando in 4:31:12. Ma grandi risultati anche nel trials di atletica a Eugene, dove Tyson Gay ha corso i 100 metri con un incredibile 9:68, che sarebbe stato ovviamente il nuovo record del mondo. Lo statunitense però nella sua impresa è stato parecchio aiutato dal vento che soffiava alle sue spalle con un'intensità di 4,1 metri al secondo. Troppo, il suo riscontro cronometrico non è stato ritenuto valido dalla IAAF. Ed è tutto per GR Sport di questa mattina, di nuovo buona giornata.